Cosa conti dice? Giorno di nuovo. Non devi, le devo ricordare che avendo lei assunto la qualità di indagato, anche semplicemente di indagato, il procedimento comunque, anche indagato, perché si è migliorata l'imputazione, l'imputato in procedimento collegato con quello di oggi, la sua deposizione non può essere raccolta nelle forme, come dire, ordinarie del vero testimone, ma nelle forme assistite previste dal codice all'articolo 210. Come serie, che prevede altresì l'avvertimento da parte mia della facoltà da parte a lei riconosciuta dall'ordinamento della facoltà di non rispondere. Ritiene necessario consultarsi con il suo assistito con la carta? Assolutamente no. Allora, assolutamente no. Allora, dato questo avviso, lei che cosa intende fare? Devo rispondere, assolutamente sì. Devo completare l'avviso nel senso che se non si avvale la facoltà di non rispondere, assume l'ufficio di testimone nella sua integralità. Quindi sarà credo di assolutamente intendo rispondere. Va bene, grazie, prendiamo il verbale. Allora l'avvertimento è stato già dato, la prego di leggere questo. Possiamo dare cortesemente al verbale atto che la deposizione del signor Masi è assistita dall'avvocato Carta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie molto, signor Comune, già lo conosciamo, per completezza il luogo e data di nascita. Palermo 19-12-70. Grazie, adesso per leggere la fortuna del pubblico ministero. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Nel giovedì 14 lei, unitamente alla fiducia, si è presentato a un commissariato di pubblica sicurezza di Palermo per denunciare i contenuti che riteneva direttamente migratori della sua persona e del suo collega di un comunicato stampa che è stato tenuto dal colonnello Sottili e che è stato pubblicato sul sito web di Paradama nella primavera, tarda primavera, diciamo, del 2013. Ricorda questa particolare, questa vicenda? Sì, lo ricordo perfetto. Ecco, in sussidio della memoria, perché non c'è chiarezza, chiedo di finale voi dimostrarle il documento che dovrebbe essere raccolto affogliato alle pagine 98 e seguenti del fascicolo. Se vuole prendermi vicino per mostrarle proprio 98 e seguenti. Lo chiesi sin dai primissimi giorni del suo arrivo,

di andare io in ferie, io volevo rinunciare alle ferie da quando è tutto quel fatto, perché volevo considerare l'iniziativa. Quindi quando dice queste cose per rinunciare dei ferie, non è stato consentito di rinunciare? Non mi è stato consentito di iniziare questa attività di indagine, che era sicuramente, sarebbe stata di posizionamento di telecamera e di microspedita. Ma cambiare le farla così più, diciamo... Perché quello sarebbe stato un atto, cioè io effettivamente la magistratura avrebbe letto quella relazione di servizio, avrebbe capito che c'era qualcosa che non andava. E quindi mi costringo a fare questa qui molto molto più morbida e blanda. Questa riflette anzi di più, diciamo, generando i fatti successivi. Sì, sì. E chiedo la posizione, Presidente, perché una direzione firma sì. Andiamo a presidente. Poi acquisirò il parere delle parti in cosa ci deve. Allora? Fece una relazione di servizio in cui scrissi, non ricordo male, ma quella era la sostanza di aver visto una persona con le stesse sembianze somatiche di Matteo Messina Denaro, sì. Ma non in questa, non è stata in questa data, non sì. In questa occasione. Sì. Ripeto, con indagini su Provenzano già iniziate, su cui poi gli riscontri oggettivi furono che Provenzano effettivamente sì. Praticamente diciamo un atteggiamento ostile, perché qualsiasi attività di indagine elementarmente che riguardasse queste situazioni qua prevedeva almeno dei pedinamenti che 80-90% delle volte non venivano eseguite, nonostante io e i miei ragazzi. Senta, quella volta che può aver visto Matteo Messina Denaro e quello che viene relazionato in questa diversa relazione di servizio che è data 8 maggio 2004? Sì. Posso? Sì, sì, io provo, la signora del mio lavoro. Grazie. Io vi metto in giro la parte in cui parlo di tratti somatici Matteo Messina Denaro. Sì, è questa. E qui tra l'altro non si vede tanto, ma nell'originale sicuramente sì. C'è un timbro che una firma del comandante del capitano Nini della sezione, su cui dove io pregai effettivamente di mettere un timbro per ricevuto. Io il timbro, e dissi, costruzione di mettere anche la firma per ricevuta. Nell'originale, se, non so se ce l'avete voi, ma forse Palermo, non saprei. Si vede chiaramente che c'è il timbro del capitano Michele Minuti senza la sua firma. Sì, non fu vistato di subito? No, assolutamente. E qui ci fu un grande alterco. Fu inviato in procura per i sacchi, avevo scritto quando... Io ero sicuro... Sì. Scusa. Fu inviato in procura per i sacchi, avevo verificato se sì, se no, ha chiesto... Io chiesi esplicitamente di portarla direttamente a mano, io insieme al capitano o al colonnello, di andare a parlare direttamente con referente per le indagini che riguardavano la cattura di Matteo Messina Denaro, cosa che come solo l'altro non venne mai eseguita, ma loro mi assicuravano che questa relazione di servizio era andata a finire nelle mani dei magistrati che si occupavano della cattura di Matteo Messina Denaro inizialmente. Poi mi dissero altre situazioni che non volevano, esplicitamente il capitano Migli mi disse che il colonnello Sottili non voleva iniziare questa attività di indagine con il dottore Russo, che era in quel momento il referente per la ricerca, il coordinatore per la ricerca delle indagini di Matteo Denaro, perché altrimenti non le avrebbe fatte seguire a noi. Io gli dissi esplicitamente che, cioè, senza nessuna smania di organismo, è soltanto di informare il magistrato che in quel luogo, in quel posto, in quell'orario, e con quegli elementi che io assolutamente gli indicai, con degli espliciti riferimenti assolutamente conducenti alla ricerca di Matteo Messina Denaro, all'eventuale cattura, informare almeno il magistrato, non di indagare io in prima persona. Complessivamente Io l'ho saputo molto, molti anni dopo. Sono tenuti di particolari, forse un po' a corredo dell'imputazione, ma manteniamoci all'interno del... Che usate comunque del Presidente? Sì, chiedo scusa. Che esatto non va in mare. La necessità di esposizione. Sì. Che esatto non va in mare. Mi sembra abbastanza... Che esatto non va in mare. Diciamo, no? Sì, mi sente comunque preciso, sprendidamente. Comunque, che lo sappia, quella resa in servizio, me lo mandi da via di Palermo, no, arrivò, ma... Sì, mi ha deciso quindi in generale Masi, questo è chiamato dell'esilio all'indagine anche di Milano Talca, sempre in questo contesto di ricerca di abitanti in qualche modo? Io venni chiamato esplicitamente a sia da sottili da lui da assumermi la responsabilità del posizionamento delle microspie all'interno della clinica Santa Teresa e quindi coordinare l'indagine TALP, sì, non dell'attività di indagine precedente, sì, stata proprio in quell'occasione. Anche per fu invitato anche al delegato che ha chiamato anche di fruttare i pigmenti con la sua auto? Sì, con la mia motocicletta sicuramente, che è andata in giro. Sì. Sarebbe posto velocemente delle notazioni di servizio per dire a servizio di osservazione, controllo e pigmento, tutti a Sofia, tutti da 2004, da avere velocemente. Conosci l'identità, non i contenuti, sono tutti in attenzione. Infatti, sostanziale, cioè, ci deve essere partecipato e si è realizzato quello che lei personalmente ha visto in questi documenti, che infatti dei lei. Esatto, sì, questo è quello di cui questi pochi, più che alcuni, la maggior parte sono servizi di osservazione, sì, sono attività inerenti sempre alle ricerche di tanti, questo professionale e professionale. Sì, almeno le prime relazioni che io ho letto riguardano proprio quel casolare. Sì. Che erano propedeutici all'installazione di una telecamera su quel casolare dove io vidi quelle persone di notte quando mi nascosi, che poi non, anche lì non venne seguito nessuno. Senti, vengono acquisitivamente a dimostrazione dell'attiva partecipazione del MASI a questi centri di abitanti, è stato questo fine? Fosse offensiva della sua professionalità, della sua persona, il contenuto di questo comunicato stampa? Sì, guardi... Cioè la cosa della vita? Sì, guardi, ma non solo la vita, cioè io fui tempestato di telefonate, colleghi che scherzando, ridendo, mi prendevano in giro perché... cioè, che loro sapevano quanto sì, io... Da... Ma assolutamente sì! Assolutamente sì, perché nel momento in cui la notizia viene divulgata su un quotidiano, seppur online, ma che aveva avuto già un bel po' di visualizzazioni, non soltanto civili, ma i carabinieri, io ho frequentato due corsi, sia quello da carabiniere che quello da sottufficiale, quindi bene o male, già soltanto i frequentatori di corsi, bene o male, si parla di 2-3 mila persone che mi conoscevano. Poi, purtroppo per certi versi, per quanto riguarda l'amministrazione è diventata pubblica, il mio pubblico, e quindi anche parecchia gente non nell'ambito dell'arma dei carabinieri ne aveva sentito tanto, insomma, sì, troppo perché sì. Cioè, non mi sarei mai aspettato. Io ho sempre sporto denunce e querele nei confronti di questi ufficiali, non ho mai esternato, mai e poi mai esternato pubblicamente nulla di ciò che penso, di quello che ho vissuto soprattutto con quelle immagini nei loro confronti. Quindi mai domani sarei aspettato che il mio superiore andasse sul panorama. Di questi scontri, diciamo, la politica non ha mai detto niente. Assolutamente. Grazie, Masi, un attimo, il procedimento del Corte Civile, maresciallo, era anche quello in questione. Lei è fiducia, il maresciallo fiducia, lei quindi definite delle scorie, lei ha in mente perché il motivo per cui il generale sentì correre lo stile, oggi generale l'abbia definita scoria?

suo vice, lo stesso il maggiore Bosch che era sempre stato con lui il suo vice. Per comando sottile non lo ricordo. No, no, no, grazie. Ricorda invece l'ufficiale, il comandante del reparto operativo che ha disposto il trasferimento? No, il trasferimento arriva dal comando regione. Chi era nel 2008 il comandante del gruppo investigativo? Eventualmente avvocato lo... Ma è uno studente, Presidente. È uno studente, io... Sì, ho capito. Domani lo sentirò, chi è, le ragioni. Cioè, e allora lo chiederemo cioè, lui direttamente. Ma la domanda è preliminare, diciamo, a chiedere che rapporti aveva col colonnello per venire in casa, ma non c'è. Posso rispondere? Aveva particolari rapporti con questo colonnello? Ce l'aveva con lui, non lo so, cioè... Io al... Aveva particolari rapporti con questo colonnello che erano... No, io chiesi a Paolo Annunci, io chiesi a Paolo Annunci, e questa è la domanda che mi fa, io chiesi a Paolo Annunci, visto che mi trovo in una situazione di mobbing con Sottili precedentemente e con Goscio in quel momento, di continuare ad un'attività di indagine su Matteo Messia Denaro, l'attività di indagine è già iniziata. Io chiesi a Paolo Manucci, sto rispondendo sinceramente, chiesi a Paolo Manucci di finalmente avere lo spazio che avevo prima, però da tutta risposta dopo qualche settimana mi arriva l'avviso di garanzia per una storia che sta accennando. Bene, grazie. Altre domande? L'avviso di garanzia gliela mandato il colonnello? Cioè, altre domande, grazie. Se ci sono. Sì. Non faccio tutta un'altra serie di domande perché non mettendomi questi non voglio infastidire il tribunale. Sto cercando di rispettare le norme del codice relative alla connessione con le domande con il capo di imputazione. Dico però che è stata spiegata la vicenda Cimina, è stata spiegata l'avvistamento di sera. Io per la verità, Presidente, parlano per me gli antiprocessuali che ho depositato, dico sulla imputazione. Io lascio vedere, giustamente, insomma, meglio di me, ecco, no? No. Dico, andiamo allora a un altro discorso. Lei dice che Sottili non condivideva le sue impostazioni per la ricerca dei latitanti, giusto? Ha detto che Sottili non voleva che venissero fatti dei pedinamenti. Questa è la domanda, è stata fatta al pubblico ministero, penso che posso fare domanda. La domanda è questa, Sottili perché non voleva che certi impedimenti venissero effettuati? Cosa spiegarsi questa circostanza? Non me lo spiego, è assolutamente illogico, perché il colonnello Sottili, anche in altri tribunali, giustifica il fatto che aveva dato ordine di non eseguire pedinamenti col fatto che in e non in tutte, in alcune vetture dei favoreggiatori c'erano già dei GPS. Il problema è, e questo è quello che ribattevamo noi al colonnello Sottili, non soltanto io, aspramente talvolta, che il GPS non ha una telecamera all'esterno dell'autovettura e che quindi sì, il favoreggiatore si ferma a 200 metri dall'abitazione probabile di Provenzale, ma non vedevamo chi incontrava, non potevamo identificarlo, quindi era assolutamente la ragione per la quale il colonnello Sottili spiegava il fatto che non volesse fare praticamente è perché l'auto era dotata di un GPS. Le diceva o le ha detto mai lui o il capitano Miulli altre ragioni per le quali un certo pedinamento erano opportuno effettuarlo? Io però, avvocato, devo ribadire quanto detto in esordio e speravo di essere stato chiaro. Le domande che in questa sede possono essere rivolte non soltanto da parte sua, ma da parte di tutti. Ho ammesso fin qui queste domande a corredo per cercare di chiarire un pochettino la situazione di ordine generale, ma resta il fatto fondamentale. Noi abbiamo il vincolo di come è stata formulata l'imputazione. Le domande non possono che riguardare domande precise sui fatti oggetto dell'imputazione. Quindi l'attività, la condotta eventualmente diffamatoria, il fatto determinato è eventualmente attivo. Tutte le modalità operative. Domande, però voglio dire questo. Il giudizio del colonnello Sottili. Avendo pregato in particolare il pubblico ministero di attenersi a questo, non è stato completamente possibile che ci posso fare, però ho l'impressione che siamo, come dire, macinando un'acqua forse un minuto. No, no, altre domande. No, Assolutamente, se non mi sono affidato di vedere il mezzo, grazie, si può comandare. Grazie.